Ma di che stavo a parlare? Lasciatemi perdere, perché oggi mi sono proprio dispiaciuto, perché per me questo non è il calcio. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Qua davanti al compagno di squadra Valentino Grande, Rossi saluta ancora prima del traguardo con una certa baldanzosa arroganza, saluta il pubblico ancora prima di aver finito. Lorenzo Cè vince il Gran Premio di Francia davanti a due italiani, un coriaceo resistentissimo e sorprendente oggi Valentino Rossi e un buonissimo Andrea Dovizioso. Sembrava che era più difficile questa volta con Marquez, ma lui ha fatto qualche errore all'inizio di gara, non l'ho potuto vedere molto perché già l'ho sorpassato nella prima chicane, però sembra che ha fatto anche altri errori, non solo quello della chicane. Questo ha facilitato un po' il prendere strada e essere concentrato e provare a martellare giro a giro, no? lo che poteva. Si è alzato Morata con il destro! Morata non si era accorto che era entrata perché era papera di Handanovic. In aria prova a staccare Siani, un rimpallo e la palla va dentro e il gol lo segna incredibilmente Gentiletti, che fa 1-0 nello stadio dove si è rotto il crociato, torna e segna un gol che può valere tantissimo per la Lazio. 1-0. Attacca la Roma, Iturbe, gli fa spazio Torossidis, pallone per Nengolan, la cross in Nengolan, palla che passa, resta lì, una deviazione, porta vuota rete, Torossidis, Roma in vantaggio. Leo Messi, la palla sul sinistro, la lavora bassa, pallone di ritorno, Messi! Lionel Messi riesce a far uscire il pallone che potrebbe valere la Liga per il Barcellona. È finita, il campione di Spagna si toglie la corona e la pone sul capo del Barcellona che ha vinto strameritatamente questa Liga. Beh ragazzi, un weekend gonfio di sport come di più non si potrebbe, eh? Tra due ruote a motore a pedali, parleremo di entrambe, weekend di racchette con Djokovic re di Roma, di palloni da basket, perché se è vero che il Barcellona ha vinto il titolo del calcio, è anche vero che il Real Madrid del basket ha vendicato Ancelotti battendo l'Olympiakos in finale, alzando l'Eurolega 20 anni dopo l'ultima volta. Poi c'è quel che resta del nostro calcio e c'è il derby di Roma, che adesso si sa è ufficiale da pochi istanti, c'era un dubbio di una mezz'ora, 18:30 si giocherà lunedì alle 18, 48 ore dopo Juventus, Napoli, e la Roma naturalmente si lamenta. Ciao Pierluigi Pardo, amico mio. Come va? Bene, tu? Molto molto bene, molto bene. Cosa ti è rimasto di questo weekend di sport? Cosa ti è rimasto negli occhi? Dimmi. Tanta roba, la sfida per la Champions League, che è sempre più divertente, sempre più stimolante, con colpi di scena clamorosi, l'immagine di Storari che batte Handanovic in maniera clamorosa e della Juve che vince pure le partite che quasi sembra non voler vincere, delle quali sembra gliene freghi di meno. E poi vabbè, di cose abbiamo viste tante, dispiacere ovviamente per la retrocessione del Cagliari. In questi casi giocavo prima con mio amico, ma dai, troppo strana. Ma si dice sempre merita la Serie A, come se poi quelle che ci stanno non le meritassero. La verità è che la stagione è iniziata male, è finita peggio e insomma, però dispiace, Cagliari è un posto sempre molto banalmente molto piacevole dove andare, per cui sai, poi noi abbiamo una abbastanza paesaggistico gastronomica della Serie A, per cui insomma perdere una città come Cagliari mi dispiace molto, proprio egoisticamente parlando, sì. Sta molto bene. Ascolta una cosa, cosa ne pensi, anche di questo parliamo dopo, ma cosa ne pensi dei frigni del Milan a Sassuolo? Perde la partita, errori arbitrali ce ne sono stati, però è quasi un inedito, no? Sentire una grande squadra, una di quelle che mettono su distanza psicologica, sì, eccetera, eccetera, mettersi a frignare per. Ma forse ne mette di più il Sassuolo, forse dici? Forse la grande. Beh, insomma, adesso questa è una battuta, una provocazione. No, io più che sul Milan ho sentito più che altro le dichiarazioni di Berlusconi di un'ora fa, e mi sembra che chiudano ogni possibilità di al rinnovo di Inzaghi. Sembra proprio che, insomma, al di là dell'affetto umano che si capisce, mi sembra proprio in quelle parole abbiamo che ci sia... visioni diverse. Sì, mi sembra proprio che ci sia lo sforzo umano di Berlusconi di non essere troppo, no, diretto nella sua critica nei confronti di Inzaghi, credo per una questione di affetto, alla fine anche lodevole, no? Perché comunque immagino che si vorranno bene, sì, quindi per non ferirlo, però mi sembra che il giudizio, diciamo, politico sulla gestione di Inzaghi sia assolutamente negativo. E non anche quello numerico, Pierino, appunto, anche quello, sì, numerico, leggi la classifica, cioè è una cosa che al di là dei piagnistei a Sassuolo è stata una stagione in altalena più giù che su, e che non può aver soddisfatto nessuno, ma ciò che più preoccupa è che il futuro incerto è nel caso del Milan, anche se Berlusconi continua a dichiarare vendo una parte, vendo di qui, vendo di là, ma ancora un nero su bianco e un indirizzo preciso su questa ipotetica volontà di Berlusconi non ce l'abbiamo, quindi mi sembra tutta al momento chiacchiera. 800 24 00 24 è il numero verde, adesso ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo ospiti, poi discutiamo di tutto quello che volete. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo regalato un gol e questa cosa abbiamo fatto un po' troppo questa stagione, abbiamo fatto metà strada, come ho detto ai giocatori, l'altra metà della strada sarà domenica, sarà il preliminare per la Champions e ovviamente giocheremo per vincerla. Chiudiamo un attimino il discorso campionato e ci godiamo la finale di Coppa Italia che abbiamo voluto, che abbiamo meritato, e poi speriamo di non essere penalizzati per quanto riguarda il derby. Chiaro che Garcia ancora non sapeva dello slittamento del derby a lunedì pomeriggio ore 18, cosa ormai ufficiale. Pierluigi Pardo sempre collegato, 800 24 00 24 per i vostri interventi. Saluto una voce e un volto noto, adesso sentiamo la voce naturalmente per radio, Massimo Caputi, responsabile dello Sport del Messaggero. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Massimo. Ciao. Ciao Pierluigi. Ciao. Senti, Roma e Lazio verso il finale del giallo in un giorno strano, con il Napoli che giocherà lontano, molto lontano da loro, perché 48 ore prima contro la Juventus. Ma guarda, indubbiamente questa decisione avrebbe scontentato una delle due società, adesso scontenta la Roma e diciamo va a vantaggio della Lazio. Credo che per l'immagine generale del calcio italiano, diciamo, è abbastanza singolare spiegare perché la Juventus, che gioca mercoledì e in trasferta, possa giocare poi di sabato con il Napoli, e la Lazio, che gioca in casa mercoledì, poi debba giocare lunedì il derby. E questo secondo me è l'aspetto, senza che uno possa andare, non so, a favore di uno contro un altro, no, è proprio una questione, cioè, oggettiva. Secondo me c'è qualcosa di strano, anche perché poi, per assurdo, è vero che Roma e Lazio sapranno il risultato del Napoli, ma è altrettanto vero che il Napoli a questo punto potrebbe avvantaggiarsi di una Juventus che ha giocato pochi giorni prima, che è in clima di festa per il campionato, magari anche per la Coppa Italia e penso alla Champions League, e non dimentichiamoci che alla fine del torneo, all'ultima giornata, c'è Napoli-Lazio. Ma tutto molto singolare. Sì, è così, la Roma è arrabbiata, la Roma, Pierluigi, basta un pari, ma ne parlavamo anche ieri, sembra una squadra, tu dici senza gambe, io dico senza anima, probabilmente sembrano bere tutte e due le cose. Beh, ieri l'anima ce l'ha avuta, ieri l'anima ce l'ha avuta, e devo dire che è stata una partita complessa, ma alla fine secondo me l'elemento più positivo della partita della Roma di ieri è stata proprio la sofferenza, il fatto che comunque si è trovata potenzialmente dentro un tubo nero, dentro un tunnel dopo il gol dell'1-0, ed è riuscita in qualche modo a venirne fuori. Poi è ovvio che l'Udinese non è il Real Madrid, non me ne voglio stramaccioni, e non è nemmeno al massimo della motivazione, e il secondo gol se l'è fatto praticamente da sola, sì. Ed è anche vero che ha avuto tante occasioni, quindi se mi chiedi la prestazione da Roma certamente non mi è piaciuta, però insomma di positivo ci sono i tre punti, che secondo me sono innanzitutto importanti per il terzo posto, perché sappiamo che la Roma, indipendentemente dal derby, indipendentemente da tutto, se batte il Palermo all'ultima giornata è sicura di essere in Champions League, sì. E banalmente il terzo posto è meglio del quarto. Questo, ecco. E detto questo, certamente in questo momento vedo meglio la Lazio, anche se poi devo dire che la Lazio l'altro giorno con la Samp ha rischiato, perché comunque ha concesso due occasioni e mezzo clamorose, e quindi non mi è sembrata ancora una squadra completamente perfetta. C'è anche questa revanche delle genovesi, Sì, assolutamente, che è un'altra storia importante. No, sul discorso dello spostamento io credo che sia una decisione che si presta a enormi polemiche, anche perché è vero che ci sarebbero state polemiche anche se non fosse stato spostato, però sai, se non lo spostavi, non l'hai spostato. Qui hai preso una decisione, quindi hai preso una decisione per un motivo che deve essere oggettivo. Siccome questo motivo è chiaramente oggettivo da una parte, ma assolutamente inaccettabile dall'altra, sì. Mi sembra. E poi c'è un elemento che comunque non è che da mercoledì alla domenica ci fossero due giorni e mezzo, è una decisione che si presta ad essere criticata, è una distanza normale in questo momento della stagione. Due all'Olimpico, come diceva Massimo, quindi insomma siamo proprio nell'ambito del normale protocollo, del normale canovaccio delle coppe europee, per cui la decisione è abbastanza discutibile, e io la dico proprio semplicemente, io avrei fatto giocare Juve-Napoli, e lo so che lavoro per una televisione, certamente le TV non avrebbero gradito, però se la Lega Calcio si impone, io avrei fatto giocare. La Juve vuole fare la festa col sole? Benissimo, allora alle 18. Secondo me la soluzione migliore era giocare tutti domenica alle 18. Sì. Perché comunque ci poteva essere questo elemento della contemporaneità. Hai ragione. Questione di equità, dai, equidistanza. La Juve poteva fare la festa e la Lazio comunque guadagnava 3 ore in più. E per carità, insomma, è ovvio che era comunque una forma per venirla incontro. La Juve guadagnava un giorno, e quindi Juve-Napoli era una partita da questo punto di vista più regolare, per me quella era la soluzione. Sì, hai ragione, qui c'è la sensazione che sia prevalsa la linea Lotito, che non avrà vinto. Il problema è che diciamo anche la posizione di Lotito, è chiaro che comunque in qualche maniera fa aumentare le polemiche, no? Perché certo, è un uomo importante del calcio. Ma Max, italiano. Abbiamo scoperto che non conta niente, no? Lotito, promosso Carvi, promosso Frosinone, Lotito non conta nulla, dai. Diciamo che conta al di là del Carvi e del Frosinone, ma conta perché è anche un bravo dirigente, è un uomo in gamba, perché io credo che se non fosse così non avrebbe avuto lo spazio e le posizioni che ha, quindi grande rispetto sulle capacità. Io ribadisco, questa è una decisione che comunque avrebbe scontentato, però adesso al di là di tutto dimostra secondo me l'incapacità del calcio italiano di programmare, di essere comunque affidabile. Io ci vedo sempre tanto pressappochismo. Sì, questo è vero. Senti, noi abbiamo sempre sostenuto, in particolare io ho sempre sostenuto che la storia di De Laurentiis e di Benitez, questo lungo tiramolla per il rinnovo del contratto, fosse un bluff, mentre fosse già tutto deciso. Mi dicono che Mihajlovic è in arrivo a Napoli con un contratto che secondo alcuni sarebbe già stato firmato. Siamo vicini anche alla soluzione di questo tipo di giallo? Ma io penso di sì, io la penso come te, cioè che questo balletto tra De Laurentiis e Benitez fosse come una partita orchestrato. Sì, esattamente. Credo che comunque non abbia giovato molto al Napoli, e credo che sia anche giusto, alla luce dei risultati di questi 2 anni, che l'avventura o il rapporto tra Napoli e Benitez si interrompa, perché obiettivamente credo che è vero, ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, però non è mai stato competitivo per il campionato, pur avendo una squadra forte, una squadra più forte di quello che dice la classifica. E quindi insomma Mihajlovic è il nuovo allenatore del Napoli, salvo clamorosi ribaltoni che non riusciamo a vedere, e mi sembra anche la soluzione una soluzione fisiologica. Poi è chiaro, Pier, che tra una qualificazione alla Champions League ancora possibile, anche se il Napoli ha tardato, però ha buone carte in mano dal punto di vista del calendario, e una non qualificazione in Champions League molto cambierà. Guarda che il Napoli, dopo la vittoria del Lazio dell'altro giorno, secondo me invece è in una situazione molto molto complessa, perché e soprattutto alla luce anche di questa decisione di farla giocare prima, Sì. Napoli deve vincere con Napoli deve fare 9 punti, ragazzi. Deve fare, vabbè, al Cesena questa sera. Al Cesena questa sera mettiamo 3. Deve fare 9 punti, se ne fa 7. Se ne fa 7 partendo dal presupposto che vinca l'ultima giornata contro la Lazio, deve sperare che la Lazio non vinca il derby. Ma mi sembra difficile. Sicuramente, insomma, la contemporaneità sarebbe stata più giusta. Mi sembra difficile soprattutto perché, insomma, la Juve banalmente non credo che voglia farsi rovinare la festa, oltretutto con la rivalità che c'è dal Napoli all'ultima giornata. Abbiamo visto la Juve vince pure le partite in cui va senza 5 titolari perché poi è una finale di Coppa Italia. Quelle che vorrebbe evitare. Non lo so. Certo, il Napoli può vincere contro una Juve magari un po' scarica, un po' rimaneggiata. Il Napoli può vincere nella partita secca, può succedere, però è molto complicato. È chiaro che se questo dovesse succedere, partendo dal presupposto che vinca stasera con Cesena, tutto da dimostrare visti i precedenti, ma insomma credo che stasera non ci saranno grandi problemi, e a quel punto poi metterebbe una pressione enorme addosso alla Lazio, che delle due sicuramente è quella per il calendario che vince meglio, secondo me, lo dico da settimane e continuo a trovare conferme, secondo me la Lazio sta meglio della Roma a questo calendario, ancora cioè a questo scontro diretto all'ultima giornata che può essere pericolosissimo perché è fuori casa, perché è contro una squadra con la quale è già perso, per cui lo scontro diretto se dovesse perdere sarebbe per forza negativo, però insomma il Napoli, secondo me, con i due punti di Parma è abbastanza suicidato. Vediamo, adesso deve fare il miracolo a Torino. L'ultima cosa, Massimo Caputi, l'Inter ha mostrato ancora una volta tutta la sua pochezza contro una Juventus che non, tutto sommato, non aveva quasi intenzione, è andata a vincere involontariamente a San Siro, mi viene da dire. E il Milan, dicevamo prima con Pierluigi, forse peggio ancora, pigliandosela con Guida, l'arbitro, inedito, dicevo, per il Milan, che sembra politicamente più debole Sassuolo. Poi gli errori ci sono stati, però continuo a pensare che siano gli alibi dei deboli e di chi ha problemi. Non c'è dubbio, questo è stato un anno decisamente negativo per Inter e Milan, ma non è un anno negativo, se vogliamo, a sorpresa più di tanto, perché la parabola discendente di queste due squadre è evidente, perché non sono più state più in grado di investire economicamente su giocatori degni di queste due società, e perché appunto non c'è stata una programmazione. Vediamo, l'Inter mi sembra nonostante tutto leggermente avanti al Milan su questa fase nell'eventuale fase di rilancio, staremo a vedere, però insomma la personalità e la qualità dei calciatori fa la differenza. Mi sembra che nell'Inter e del Milan giocatori con queste qualità, appunto, caratteristiche, ce ne siano pochi, e quindi i risultati vengono da sé. Grazie Massimo. Ciao. Grazie a voi. Ciao Massimo Caputi. Ci fermiamo per il traffico. Non siate impazienti. È stata una bellissima gara al Giro d'Italia, una bellissima gara al MotoGP. Dopo le tre ne parliamo con calma. Fate i bravi, aspettate, state con noi, chiacchieriamo insieme. 800 24 00 24, numero verde. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Comincia. Tutti convocati. E si ricomincia con due ascoltatori, andiamo veloci perché poi stiamo aspettando un grande ospite. 800 24 00 24, Marco da Padova, Federico da Forlì. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Dica. Salve. Il mio intervento è sullo spostamento del derby. Sì. Io penso che sia una profonda dimostrazione di non professionalità e di mancata pianificazione. Punto primo, negli altri paesi non si gioca sempre al lunedì, cioè le squadre tedesche o inglesi o spagnole non è che devono giocare al lunedì per recuperare l'Europa League. Secondo luogo, abbiamo un problema degli pochi spettatori, degli stadi che non sono all'altezza, e spostiamo una gara di cartello a lunedì alle 18. Questa è la mia considerazione. Secondo me manchiamo di professionalità, voglio dire, di programmazione, di certezza diritto sportivo. C'è una cosa fondamentale, che un conto è giocare un derby la domenica e un conto è giocare lunedì alle 18, cioè ci sarebbe anche da lavorare lunedì. Adesso poi c'è il discorso dell'ordine pubblico, volendo, la gente che si sarà già preso il biglietto, che avrà comprato il biglietto, cioè secondo me sinceramente è un eccesso. Ed è un eccesso poi oltretutto che nasce da una situazione, ripeto, se la partita fosse stata sabato, per esempio, secondo me Juve-Napoli di sabato con la finale di Coppa Italia mercoledì alle 18 mi sembra una follia. Mercoledì-domenica mi sembra Mi sembra sia ampiamente possibile. Sì, dai Pier, è ampiamente possibile recuperare. No? È un turno infrasettimanale. È un paradosso il fatto. L'Alfa sta facendo una stagione straordinaria, va a giocare la finale di Coppa Italia. È un paradosso che arrivi a giocarsi una partita così importante perché è stata brava. Però è il paradosso di chi va bene. Cioè, pure le squadre che fanno le coppe europee, più vanno avanti e più si possono affaticare. Certo, è una cosa. Ampiamente sperimentata a qualsiasi livello. Pierluigi, no? Ma guarda, stiamo seguendo, almeno sto seguendo per quanto posso, i playoff NBA. Si gioca una sera sì e una sera no, e sono gare di un'intensità fisica ed emotiva mostruosa. Quindi è un discorso che abbiamo fatto mille volte. Se vogliamo giocarcelo in questa maniera per lasciarli dormire mezz'ora in più, facciamolo. A me non sembra corretto, così come a te, Federico Forlì. Sì, pronto? Buongiorno. Tifoso milanista, volevo solo riportare le dichiarazioni di Galliani alla fine della campagna acquisti di agosto. Sì. Finalmente siamo una squadra competitiva per lo scudetto. Già sentita. Seconda dichiarazione del presidente Berlusconi. Almeno non ho niente da invidiare alla rosa di Juventus e alla rosa della Roma. Mm-hmm. Questi sono i nostri dirigenti, il nostro presidente. Le conclusioni le possono trarre. Federico, sono dichiarazioni di principio e di intenti, perché sono quasi dichiarazioni politiche queste, che sono puntuali ad ogni inizio di stagione. Poi chi vuole intendere intende, se uno vuole farsi abbindolare faccia pure. Quindi sono dichiarazioni che abbiamo sentito tutti gli anni, no Pierluigi? Cioè, sì, tutti gli anni il Milan parte per vincere qualunque cosa, poi io penso, l'ho detto tante volte, che questa squadra sia una squadra non straordinaria sicuramente, ma non è questa la sua classifica. Cioè, no, non è una squadra comunque costruita male. È costruita male e allenata non benissimo, dai, possiamo dire la verità. Una gestione diversa poteva essere molto più avanti in classifica e poteva lottare per ben altre posizioni, soprattutto in un campionato come questo, nel quale poi alla fine la zona Champions è poco sopra i 60 punti. Sempre la storia della Sora Camilla. Ma sì, io penso che il Milan una decina di punti in più poteva averli. Certamente poteva averli. Rimane una squadra comunque. Adesso la Fiorentina senza grandi problemi. Sì, rimane comunque una squadra anche chimicamente costruita in modo non corretto. Salutiamo Andrea Stramaccioni. Ma però, quello Strama lì, come va? Quello Strama lì. Ciao Andrea. Buongiorno. Uno degli allenatori più preparati e simpatici da Serie A, lasciatemelo dire. L'abbiamo detto mille volte, strano. Grazie. Prego. Io voglio fare subito una domanda di questo tipo, ma prima del bilancio a stagione, partita di ieri sera, eccetera, posso chiederti, Andrea, quanto ha condizionato la stagione dell'Udinese la prospettiva futura di uno stadio nuovo ancora in divenire? Quindi questo fatto di giocare dentro a un cantiere con un futuro che è lì certamente da prendere, è un futuro importante, però credo che in qualche modo tutto questo abbia condizionato l'Udinese. Non sto assolutamente cercando alibi per nessuno. Guarda, questa è un'osservazione intelligente che ho sentito poche volte, e è vero, lo sappiamo un pochino tutti, dalla famiglia all'allenatore e alla squadra. Abbiamo giocato un anno ovviamente in cui il fattore campo è stato un pochino meno sfruttato di altre squadre. Eufemismi. Esatto. Però questo, diciamo, in nome di un sacrificio, in nome di qualcosa di veramente importante, di un gioiello che è stato costruito dalla famiglia Pozzo, che rappresenta, credo che più che rappresenti l'Udinese, rappresenta proprio una parte d'Italia, perché questo stadio sarà un centro d'aggregazione importantissimo, multifunzionale, veramente un gioiello. E insomma, io che vengo da San Siro e Olimpico come esperienze, vi posso dire che sarà veramente un gioiellino, quindi sì, ne è valso la pena questo sacrificio. Andrea, come diciamo mille volte, sarà finalmente uno stadio contemporaneo nell'Italia dei musei del calcio, Pardo? Sì, assolutamente, l'Udinese è molto avanti da questo punto di vista, e in questo essere avanti ogni tanto ci sono degli investimenti che portano a magari delle sconfitte o a delle frenate dal punto di vista della crescita, ad esempio la non campagna acquisti o la famosa cessione di Sanchez prima del turno preliminare di Champions League di qualche anno fa. Però poi alla fine questi investimenti qui magari ti danneggiano sul presente, però poi fanno sì che questa società possa essere all'avanguardia ormai da tanti anni, facendo le corna ovviamente tutti gli amici friulani all'ascolto, possa avere un futuro molto molto florido. Come hai visto la Roma ieri, Strama? Ma guarda, ti volevo chiosare prima sul discorso sì. che facevi giustamente della società. Io credo che in Italia, un pochino essendo tutti quanti giustamente molto tifosi, ognuno della sua squadra, si parli di investimenti solo quando si parla di acquistare un giocatore o un grande centravanti. Io credo che l'Udinese abbia con lungimiranza capito che per rimanere a grandissimi livelli e avere una città di 100.000 abitanti bisogna investire anche sulle strutture. E per strutture vuol dire stadio, campi di allenamenti, ma proprio tutte quelle facilitazioni che permetteranno all'Udinese di mantenere un trend di investimenti positivo e cercare di avere sempre una squadra che galleggi fra una salvezza sicura e il sogno dell'Europa. Quindi alle volte investire non è solo prendere due o tre centravanti e poi magari retrocedere. Sì, quando... hai ragione. E quindi questo è un ragionamento più filosofico, diciamo, però in cui qui a Udine credono tanto. Senti, a Roma? Diceva, chiedeva Pardo, come l'hai vista? Guarda, io la Roma soprattutto il primo tempo l'avevo vista un pochino meno come possiamo dire, meno brillante dei valori individuali che ha, non so quanto per nostro merito o per loro incapacità di riuscire a metterla in campo. Probabilmente se avessimo trovato il gol del 2-0 nel primo tempo sarebbe stata una partita per loro difficile da recuperare, anche perché l'ambiente che si percepiva era un ambiente che di pressione, no? Perché la Lazio aveva vinto e poi secondo me hanno trovato il pareggio, sono stati abbastanza fortunati, o comunque siamo stati noi, siamo quasi fatti gol da soli nel secondo, il secondo gol, e sicuramente a fine partita ho visto dei volti molto più rilassati, perché adesso comunque si giocheranno il match point con due risultati su tre e questo credo che non sia poco. Senti, potendo cambieresti qualcosa in questa stagione o ti ha soddisfatto tutto? Ma guarda, noi Pozzo in questo sono stati molto chiari quando mi hanno contattato. Il nostro era un progetto biennale, è un progetto biennale su cui su una squadra molto giovane, in cui probabilmente questo viene considerato un anno zero, forse un po' l'anno della fine di un ciclo fantastico che Guidolin ha condotto magistralmente portando le Udinese in Europa spesso, ma già dall'anno scorso si sapeva che la squadra si cercava, diciamo, di rifondarla per porre le basi di quello che poteva essere la nuova Udinese con l'avvento del nuovo stadio. Quindi secondo me abbiamo fatto paradossalmente delle ottime partite con squadre importanti, ma abbiamo lasciato con grande rammarico tantissimi punti con le piccole, centrando il nostro obiettivo con largo anticipo, ma mancando qualsiasi appuntamento abbiamo avuto per il salto di qualità. Sì, sei d'accordo Pierluigi? Sì, questa beh, analisi. Mi sembra, fra l'altro fammi dire, adesso non è che dobbiamo fare la piaggeria, però è un'analisi molto onesta, nel senso che poi insomma Strama poteva anche venire qui a dire ma che volete, siamo salvati con 21 giornate in anticipo e comunque qualche serata importante l'Udinese se l'è regalata, qualche vittoria di prestigio, pensa a quella a San Siro contro l'Inter, a quella in casa contro il Napoli, insomma non sono mancate le giornate positive, vittoria contro il Milan, vabbè Milan per quanto fino a un certo punto, però anche il pareggio con la Juve, no? Quindi sono mancati appuntamenti e medaglie in questa stagione, mi sembra molto onesto questo tipo di atteggiamento. Mi è sembrato un anno di transizione, sinceramente. Mi è sembrato un anno. Beh, ma certo, Piero, abbiamo detto. Che succede? Cioè, che fate tu e quell'altro lì, quello bravino, quello giovane bravino? Che fate? Il mio coetaneo? Esatto. Ma io credo che lui possa ancora darci il suo contributo. Io in questa stagione l'ho passata anche a convincerlo, a cercargli di fargli capire che lui può essere per noi importante sempre, sia quando parte dal primo minuto e sia subentrando, no? Da grande campione qual è. Adesso faccio un esempio nella partita di ieri, lui purtroppo era infortunato, ma immagino in una Roma che nei minuti finali era più attenta a difendere il 2-1 che a cercare di fare il terzo, a 20-25 minuti alla fine se ci fosse stato lui poteva essere devastante e le occasioni che abbiamo avuto magari essere capitalizzate. Quindi secondo me lui l'ha dimostrato in tante partite, può essere decisivo dal primo minuto, può essere decisivo a partita in corso. È normale che alla sua età forse farne 38 da titolare deve cominciare un po' a toglierselo dalla testa, con affetto dico. Sì, sì, no, ma è chiaro Andrea, il problema è togliere a questi giocatori l'idea di dover essere sempre comunque titolare, discorso che possiamo allargare a Totti e a qualcun altro. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è come vedi la corsa alla Champions, Roma, Napoli, Lazio, e come vedi la finale di Champions? Beh, domande facili. Domande facilissime. Ci dai anche tre numeri da giocare, siamo contenti. Ma io credo che nella corsa alla Champions, onestamente, Roma e Lazio hanno un vantaggio, no? Sul Napoli. È ovvio che il Napoli deve giocare stasera, sulla carta una partita che può far bottino piano, ma insomma io immagino che ancora l'inerzia possa essere a fuori di Roma e Lazio, anche se c'è questo Napoli-Lazio all'ultima giornata. Per quanto riguarda la finale di Champions, io credo che il bello del calcio è che non sempre in queste gare abbia vinto chi abbia la somma di valori tecnici superiori. E a me piace molto il modo con cui sta giocando la Juventus, come, e lo stiamo tra l'altro utilizzando anche noi, quindi questo 4-3-1-2 con un trequartista finto, no? Con un giocatore che è un centrocampista offensivo, che in pratica gli permette di difendere 4-4-2 ma di attaccare sempre con un giocatore tra le linee, e questa cosa ha messo in grandissimo in difficoltà il 4-3-3 del Real Madrid. Sì. Secondo me potrebbe mettere in difficoltà anche il 4-3-3 del Barcellona. Sì, perché loro, la Juventus quando riparte ha sempre dei quadri 2-2, 3-3. Sì. È ovvio che dai, l'inerzia è a favore del Barcellona, ma noi da italiani sto trovando tutte le chiavi per poter vincere. Sì, per poter andare con un po' di fiducia, insomma, a Berlino. Dai. Partita secca giocabile. 90 più al massimo 120 e poi vediamo che esatto, succede. E poi non trascuriamo 65-35. Un altro elemento importante è che spesso ha deciso queste partite secche e le palle inattive. La Juventus ha molti più centimetri del Barcellona, quindi il Barcellona ha avuto tanti problemi, ha cambiato, prima difendeva zona, adesso difende a uomo misto, abbiamo visto anche il gol che ha preso con Bayern, perché se tu fai gli accoppiamenti sulle palle inattive, adesso questo è un po' un ragionamento più da allenatore, però vedrai che la Juventus ha molti centimetri in più su 3-4 giocatori. Certo, questo è verissimo. Chiamiamo subito Allegri, Pardo. Ma ci ha già pensato. Ci ha già pensato, sicuramente. No, ma sicuramente. Andrea, ti ringrazio. Che fai l'anno prossimo? Ce lo vuoi dire? L'anno prossimo il mio slogan è che dovremo essere più ambiziosi dei 40 punti della salvezza. Perfetto. Quindi resti lì a giocare nello stadio nuovo, che mi sembra giusto che sia. Sì, me l'hai fatto costruire quest'anno. Ho fatto 38 partite. Hai fatto 38 partite dentro un cantiere con le ruspe, adesso fammici giocare, dici tu giustamente. Senti, scrive Max di non far arrabbiare Guido Gomirato nelle conferenze stampa. Io te lo giro, ti giro questo SMS così com'è, fanne l'uso che vuoi. Va bene. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Traffico. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando. Tutti convocati. Tutti convocati. Palpitando sotto una bandiera giallo blu. Questa è la risposta a quel dirigente di Roma. Questa è la nostra risposta, la risposta del popolo ciociaro. E si alza il coro della Nord. Ale, Frosinone Ale. Lei lo farebbe un film sul Frosinone che è in Serie A? Su che? Sul Frosinone. Calcari, per esempio. Ma no, quelle sono due belle realtà. Io mi do a Frosinone, così mi faccio una bella magnata. Lì c'è star salame buono. Vabbè, dai. dai, ci stava tutto questo, eh. Avremo tre derby laziali. Tra l'altro, Frosinone è un club laziale, no, Pierluigi? Questo è un tema, guarda, non partire su questo argomento perché. No? Beh, insomma, è uno dei principali argomenti di sfottò in queste ore, no? Tra romanisti e laziali, dire dai, finalmente fate il derby, è abbastanza un tema se vai sui social networks. Ah, insomma. Sì? Sì, poi non lo so, credo che in generale ci siano, per un motivo di nome, insomma, più laziali, più tifosi della Lazio nella regione Lazio di quanti siano i tifosi della Roma, certo. Così come a Roma, Roma squadra dell'Urbe, anche se ci sono alcuni quartieri storici di Roma che sono laziali, anche perché la Lazio è nata prima, quindi ecco, insomma, credo che questo sia un po' lo stato dell'arte, ma non sono Mannheimer e non me ne può fregare di meno. Mi piace questo mio atteggiamento proprio democristiano, ma proprio dell'ala sbardelliana. Sì, cioè, stiamo a vedere, poi facciamo due conti. Intanto il tema ti assicuro che a Roma è molto caldo. Il tema della bene, allora, chi viene da fuori, che se chi lo scaldino tra loro c'è qualche mese di tempo, Sì. È un po' Piazza della Libertà contro Campo Testaccio. Guarda che andiamo direttamente a Roma da un ascoltatore, Claudio. Vai. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Ciao romanista. Ciao Claudio. Io sono giallorosso. Bene. Diciamo che sono un romanista non praticante ormai, però non sono giallorosso. Va bene. No, io a proposito del derby volevo intervenire. Uno, volevo sapere se poi era stato sciolto il nodo su quando si giocherà questo venerdì. Abbiamo detto lunedì alle 18. Sì. Me l'ero perso. Una considerazione: oltre che qui la figura più brutta la fa la Lega, che fissa una finale di Coppa Italia all'indomani di una finale di Coppa Europea, dimostrando una scarsa fiducia nei mezzi delle proprie squadre. Ma perché questa battaglia la Lazio, piuttosto che farla nei confronti della Roma per spostare il derby, non l'ha fatto nella confronto della Juve per spostare la finale di Coppa, di giocare la finale di Coppa Italia il 7 giugno? Che era il suo diritto secondo le regole. Ma no, perché secondo 7 le giugno, regole 7 giugno non è possibile. Mica possibile, questa sinceramente non era possibile. Guarda, la finale di Coppa Italia spostata, insomma, dobbiamo anche essere realisti, è vero, ha ragione l'ascoltatore, nel senso che in qualche modo c'è un'implicita scarsa fiducia nelle qualità delle squadre italiane, però è anche vero che, insomma, negli ultimi anni raramente le squadre italiane sono andate in finale di Champions, certo, ci poteva stare la finale il 7 giugno. Detto questo, c'era già il piano B, che è quello del 20 maggio, e quindi fin lì, secondo me, è tutto a posto. Tutto a posto. Ora bisognava capire se questo spostamento sarà il caso di influire anche sul calendario. La risposta è no, sono d'accordo. Il calendario, per quella che è l'abitudine consolidata, ripeto, se si fosse giocato di sabato assolutamente no, ma la domenica, passare dal mercoledì alla domenica, secondo me è un tempo che guarda, mercoledì alla domenica con contemporanea stereo, che c'è un secondo tema, cioè non c'è soltanto la Roma ma c'è anche il Napoli, certo, Napoli, ma infatti la domenica alle 18 tutti alla stessa ora, penso che non avrebbe fatto del male a nessuno, cioè, né alla Roma, non mi scotteranno mai perché hanno interessi che confliggono, però voglio dire, comunque il fatto di giocare sapendo il risultato del Napoli può essere un vantaggio. Sicuramente, ed è stato subito sottolineato, e questa è puramente la realtà. Grazie Pier, ci sentiamo domani, eh? Cos'è stasera? Che c'è? Che succede? C'è Cassano, c'è Boateng. Ah, Cassano poi... che rientra, no? L'anno prossimo? Oh, non lo so, stasera ce lo dice, ma anche Boateng ci dirà tutto, poi ci colleghiamo con la festa della Fondazione di Cordoba con grandi ospiti, quindi lì grandi sorprese in arrivo, soprattutto rossonere e nerazzurre, poi ovviamente la celebrazione della Juve e del Barcellona proprio la notte dei numeri 1, abbiamo Mughini, abbiamo Fannine Geisha, Melissa Satta, il professor Menichini in qualità di giallorosso, il professor Guido De Angelis in qualità di biancoceleste, e poi la signorina Barra, e poi devo andare avanti? No, mi conservo la sorpresa per questa sera. Ciao Pierino. Ciao. Ci fermiamo per il GR, poi c'è Walter da Milano. Walter, stia lì, 80024 0024 è il numero verde. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri. Tra le storie di questa settimana abbiamo il re del soul, il grande James Brown. Abbiamo il genio della pop art, Andy Warhol. E poi una storia scelta da voi, un mito amato da tutti, Augusto Daolio. il Falco e il Gabbiano, tutti i giorni dalle 15.30. Vi aspetto su Radio 24. Dire, arrieccici. Tutti convocati. Ciao Monica, come stai? Bene, lei? Allegro nonostante la sconfitta. È tanto tempo che non ci vediamo, Allegro nonostante la sconfitta. È certo che nessuno mi può far perdere il sorriso. Ciao Monica! A presto, oh, c'è Emiliano che c'ha un vestito più colorato, Ha ragione, sta arrivando l'estate, nel prossimo campionato, alla fine di agosto. E allora cantiamo, l'estate sta finendo. L'estate sta finendo, è un anno se ne va. Sto diventando grande. La verità sta forse cominciando, ma comunque sono pensieri, parole, opere, musica del presidente della Sampdoria, Ferrero. Ma c'è, cioè, si scrive un accenno all'NBA? No, ma sì, certo, ieri sera l'ho vista tutta. Houston che approfitta del suicidio dei Clippers e dunque conquista questa serie, e dall'altra parte Hawks contro Cavs per designare la finalista. Abbiamo accennato anche alla vittoria del Real Madrid in Eurolega battendo l'Olympiacos, ed erano 20 anni che i Blancos non alzavano quella coppa. C'era un Florentino Perez prima buio e poi un po' più sorridente alla fine della gara. Walter da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo chiederle una cosa riguardo, io ho detto anche stamattina su alcuni siti, le parole di ieri di Jacopo Volpi, se non mi sbaglio, direttore di Rai Sport, qualcosa del genere. Sì. Sulla questione di Bala, se avrebbe detto che secondo lui il campionato non è molto regolare, con la questione che il giocatore è stato dovuto fuori per diverse giornate, forse. Non so se è vera questa cosa, ma è già un po' che la sento stamattina la legge. Beh, il fatto è che io non ho sentito le parole di Jacopo Volpi, poi ci possiamo fare le opinioni che vogliamo. Dybala è stato volontariamente congelato da Zamparini in attesa della cessione per evitare rischi, infortuni, eccetera, eccetera. Però dire che il campionato non è. Parola, almeno io quello che ho letto, un virgolettato falsato mi sembra un po' troppo pesante. Ma a questo punto, sa, nelle zone del Palermo c'è poco da falsare, cioè nel senso che adesso si gioca principalmente per i piazzamenti in Coppa, quindi. Tra l'altro il Palermo ieri senza Dybala ha vinto 1-0 a Cagliari e ha determinato un risultato sportivo, l'ultimo atteso in coda al campionato, cioè la retrocessione del Cagliari. Ognuno fa le scelte che crede. Quelle di Zamparini sono sempre un po' estremiste, però l'ha dichiarato subito: ok, Dybala lo metto in frigo perché lo devo vendere per tanti soldi, 32-34, e l'acquirente c'è già ed è la Juventus, quindi tanto per non rischiare. Chi invece è abituato a rischiare sempre che era più difficile questa volta con Márquez, ma lui ha fatto qualche errore all'inizio di gara, non l'ho potuto vedere molto perché già l'ho sorpassato nella prima chicane, però sembra che ha fatto anche altri errori, non solo quello della chicane, e questo ha facilitato un po' il prendere strada e essere concentrato e provare a martellare giro a giro, no? lo che poteva. Avrei firmato dopo il warm up per questo secondo posto col sangue e soprattutto un gran secondo posto per il campionato, molto importante, e poi mi sono proprio divertito perché andavo come un missile. Quest'anno in gara siamo forti, la nostra moto funziona molto bene. Peccato per non aver fatto meglio di terzo, però ritornare sul podio è importante, nel campionato non siamo messi male. Vogliamo cercare di giocarci le gare, ci manca ancora qualcosina, ma è normale, gli avversari sono davvero forti, una volta Valentina, una volta Márquez, una volta Lorenzo, sono davvero forti, quando sono in forma è difficile batterli, e nell'ultima gara Lorenzo ha fatto la differenza, però siamo vicini, dai, ci dobbiamo credere. Allora andiamo a Le Mans a rivivere quanto è successo a Le Mans ieri nel moto mondiale. Paolo Beltramo, ciao! Ciao Paolone! Ciao, buongiorno a tutti, mi sembra ci siano, come piace dire a mio amico Pardo, alcuni dati politici in questa gara. Il primo è che Marquez è ufficialmente in difficoltà, combattuto come un dannato contro Iannone, che è una spalla malconcia, è stata la cosa più bella della corsa questo duello. Però Marquez a combattere per il quarto o quinto posto non l'avevamo visto mai. Guarda, ci sono tre o quattro cose da dire. Innanzitutto Marquez è un po' l'antidolorifico preferito da Iannone già dai tempi della Moto 2, anche l'anno scorso con la Ducati Pramac, quando lo vedeva due o tre sorpassi li faceva sempre. Questa volta ne hanno fatti 18 in tre giri, è stato un duello fantastico che valeva da solo il biglietto, insomma, comunque la giornata davanti alla TV. È stato bravissimo, ma in quei momenti credo che la spalla gli abbia fatto meno male che in tutti gli altri, perché lì è l'adrenalina, il gusto di fare quelle cose lì, di correre così. Poi forse dopo tre giri un pochino, anzi sicuramente lo ha penalizzato. Poi Marquez comunque va detto che qualsiasi sia la posizione per la quale lotta è quasi sempre sempre spettacolare, sempre bello da vedere, divertente, certo. Con tutte queste sue, se vuoi, imprecisioni folli, ma belle. È che l'anno scorso non ha lottato mai il dritto, il lungo che ha fatto, dopo tre giri riprendeva quei tre secondi, quest'anno è rimasto dietro. Lui sta lottando più che contro gli avversari, contro la sua Honda, perché quest'anno ha vinto su 5 gare, 4 gare la Yamaha, 2 Rossi e 2 Lorenzo. La Ducati è più competitiva della Honda, perché si è visto Iannone quanto andava via, anche se in accelerazione, certo. Mentre invece Dovizioso non riusciva a fare la stessa cosa con la Yamaha. Non è una questione di motore, ovviamente il motore della Honda è addirittura forse il più potente di tutti. Il problema è di trasmissione della potenza a terra, che in questo momento la Honda non ha risolto. Ha cambiato un forcellone, indietro Marquez. Pedrosa dopo 4 gare, tra l'altro, mi sembra che siamo più indietro che in Qatar. In effetti, poverino, lui poi è caduto. Sono cadute tante Honda, è caduto Crasso, è caduto Miller, sono caduti tanti, oltre a Pedrosa. Non so come dire, è un po' un momento, forse Le Mans particolarmente, è un po' un momento di difficoltà per quel motivo lì. Il problema è che non possono tornare alla moto 2014, come ha detto Suppo, perché il motore ha degli ingombri diversi e non va sul telaio del 2015, e non possono usare la moto 2014 col motore 2014, che hanno già funzionato i 5 per questa stagione. E noi siamo contenti così, tutto sommato. Noi siamo contenti così, dai. Marquez è sempre uno che se ci sta dentro è bello da vedere. Ho capito, ma abbiamo qualche altra idea per la testa. Secondo dato politico, Lorenzo è tornato a fare esattamente il Jorge Lorenzo, partenza sparata. Un primo giro dove gira tempi di qualifica a 1.33.0 e niente, li pianta tutti lì e non lo prende più nessuno. Sì, è andato 18-20 secondi più forte dell'anno scorso, quando aveva vinto Marquez. Sì. Quindi c'è stato un progresso notevolissimo, anche se per Le Mans dipende molto dalle temperature, dalla pioggia, insomma ci siamo sempre lì al limite. Tra l'estate e l'autunno, insomma, nella Valle della Lora in questo periodo. Però è sicuramente andato fortissimo, dimostrazione come a Jerez di forza spaventosa. Fin da subito, solo warm up praticamente, è stato un po' messo in crisi da un Marquez velocissimo e anche con un passo incredibile, però Marquez aveva usato una gomma nuova, lui no, insomma, quindi poi in gara ha visto Marquez fare quel primo errore alla prima staccata, alla variante, e lì devo dire la verità, come abbia fatto a voltare, non andare dritto, lo sa solo lui, forse nemmeno lui, perché l'ha buttata giù a sinistra, è stato dentro in un modo incredibile, come all'ultimo sorpasso su Iannone quando gli si è imbarcata in frenata, ha fatto chiunque avrebbe mollato e andava dritto, lui l'ha buttata giù, è stato dentro. Io tutte le volte che lo vedo correre così, Paolo, mi viene in mente una dichiarazione di Valentino Rossi a Misano 2 anni fa, probabilmente c'eri anche tu, quando disse: boh, lui fa proprio qualifiche perfette, parte perfetto, fa i primi tre giri in cui suona tutti. E come fa? E io non lo so come fa. Disse allora Valentino. A proposito di Valentino, dimmi. Ecco, io adesso mi stavo riferendo un attimo a Marquez. Comunque Lorenzo, quando guida così, con quella sua pulizia, quella sua precisione incredibile, perché è una concentrazione assoluta, fa i tempi che variano di 3 decimi. Ha girato solo una volta sotto il 33,9. È una cosa folle, tutta la gara sopra, sopra no, no, 33,9, no, incredibile. Il giro più veloce l'ha fatto Valentino al quarto giro, 32,9, sì, mi sembra, sì, quindi sì, è stato velocissimo. Valentino ha fatto una gara che forse neanche lui si aspettava, ma alla fine forse invece sì, perché spesso si è abituati a tirare fuori il coniglio dal cilindro, sì, diciamo, sì, certo, warm up la gara, certo, e certo, lui è un animale da gara, ha fatto 60 pole ma 110 vittorie, quindi ecco, diciamo che questo rapporto testimonia il fatto che lui renda di più in gara che in prova. Questo lo sappiamo forse fin dagli albori, tu lo sai meglio di sì, tutti. Sì, sì. Terzo dato politico, Valentino Rossi, che ha ribaltato, ricordiamo, la moto non andava venerdì, non andava sabato, ha capottato tutto, è andato in gara con una moto che era praticamente un'altra rispetto a quella che avevano portato lì, è arrivato secondo, non è riuscito a riprendersi, Lorenzo, però ha lasciato la sensazione che terrà i denti infilati nella testa della classifica fino alla morte. Ah, sicuramente, quello lì. Poi lui, dicevamo appunto, secondo lui l'ha fatto spesso, è un po', non so, ha un approccio che lo porta a non riuscire spesso ad essere veloci fin dal venerdì mattina, diciamo, ci mette un po'. Quando le cose, scusate, vanno bene, il sabato in qualifica riesce a fare una prima, una seconda fila agevole, va bene nelle libere 4, che sono quelle che simulano il passo gara, dove non vale per qualificarsi alla Q1 o alla Q2, per cui di solito. Però quando le cose non vanno perfettamente e non vanno bene neanche nel warm up, lui azzarda qualcosa, però azzardo è un azzardo ragionato, cioè lui pensa che facendo quella modifica di riuscire ad ottenere quello che gli manca. Poi quello che è stato grande è che se in un giro ha capito che l'aveva ottenuto e quindi è subito riuscito a girare con un passo diverso da quello che aveva avuto per 2 giorni e mezzo, per cui qui sta la grande capacità di Valentino, che è uno che ha cambiato completamente il suo stile di guida, è diventato moderno come i giovani. Il Valentino che riesce ad adattarsi a dei cambiamenti che non ha mai provato. Insomma, diciamo che da un certo non si può negare il dato politico di un grandissimo Valentino, che sicuramente si rende conto anche lui che ha 36 anni suonati. Sì, ma quelli secondo me sono il dato che conta, sì, di meno. Che volete di più? No, certo, ma avrà sempre meno possibilità, insomma, per giocarsi il mondiale. E magari altri 3 ne vince, però non ne può vincere altri 10, ecco, no, questo è chiaro. Va bene, già che ci siamo, giochiamoci questo. Bella questa cosa, vuole la decima anche lui, insomma. Vuole la decima anche lui, e noi siamo qua alla finestra. Grazie Paolone Beltramo. Grazie. Ciao Paolo Beltramo. Torno agli ascoltatori prima di tornare sulle due ruote, ma quella senza motore. Pino, provincia di Messina, buongiorno. Sì, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Io mi scuso perché non ho potuto sentirla prima, perché è un programma che ascolto tutti i giorni tornando da lavoro. Oggi purtroppo ho avuto un piccolo problema, quindi l'ho sentito ora. Non so se avete parlato di Inter. Io ho detto prima, quando mi ha chiesto la signorina che cosa vuole parlare, ho detto disastro Inter. Disastro Inter. Ne abbiamo accennato, certamente. Parlato, ne abbiamo, ma qui vale tutto. Non è che se abbiamo già parlato di una cosa non ci torniamo sopra, quindi lei può dire quello che vuole. No, io quello che volevo dire è questo, prendo spunto da una gag vista su Facebook di Pucci, quello, il comico di Dave, sì, dove gliene ha dette ridendo e facendo ridere la gente che lo ascolta di tutti i colori, compreso l'ultimo acquisto, il grande Shaqiri. L'avessero fatto andare alla Juventus, forse sarebbe stato un bel acquisto. Dico, come fa? Io faccio il dirigente di una squadretta di promozione qua della provincia di Messina, la mia squadretta, la Mamertina. Ma come si fa a questi livelli a portare ogni anno a San Siro Scartine, giocatori praticamente che non sono all'altezza dell'Inter? Ma secondo me è la squadra che non è all'altezza dell'Inter, perché io sono convinto che ad esempio uno come Shaqiri sia un eccellente giocatore. Anche qui facciamo un gioco ipotetico e trasbordiamolo, che so, alla Juventus, e vedrete che quello è uno che funziona. Handanovic non mi sembra una scartina, Icardi certamente non lo è, vado avanti, Santone è stato comunque forse in termini di produttività il miglior acquisto del mercato invernale dell'Inter. Dunque, secondo me Hernanes è quello che ha dato brillantezza alle ultime partite dell'Inter, compresa la vittoria dell'Olimpico. È chiaro che è una squadra che non riesce a trovare continuità, ma da lì a buttare via tutto per quanto riguarda l'Inter, ci andrei piano. Certamente ci sono molte manovre da fare, vedremo se lo spazio di manovra economico sarà consentito. Tutto qui. Giovanni Padova, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io ciao. Avevo chiamato per il tema del derby, ma avete detto tutto voi, condivido. Cioè? Che è una soluzione all'italiana. Il calcio italiano ha perso un'altra piccola occasione di credibilità. Sì, ma non c'era una ragione vera per questa soluzione. Cioè, una barzelletta, secondo me hanno creato un problema. Sì, è un falso problema, perché lì ha ragione Pardo su tutta la linea. Le facciamo giocare la domenica alle 18.30 in contemporanea, tutti contenti. Ecco. Non succede niente. Cioè non, esatto. Non, allora, Genta, mi consente una piccola polemica. Le consento, sì, le però consento. Con Genta. Dica. Dica. Piccola, ma anche grande, ma no, che se si è pentito sì. di aver chiesto un anno e mezzo fa a gran voce l'esonero di Allegri dal Milan. Io da milanista simpatizzante a cui piaceva allora, Allegri, no, aspetti un attimo, perché ho seguito spesso la trasmissione, sì, io non ho mai chiesto a gran voce l'esonero di nessuno. Tanto per cominciare, Allegri è un allenatore che a me è sempre piaciuto davvero. Sì, però giuro. Non si era capito, non si era capito. Il problema è che non c'era più anche lì margine di manovra. Cioè non sono stato io a chiedere l'esonero di Allegri, ma anche perché sinceramente non potrei neanche chiedere l'esonero di Gianmarco Ferronati in regia, me ne guarderei bene. Però il discorso è che c'era un clima rovinato all'interno del club, e quando succedono queste cose nulla è peggio di un allenatore che è esautorato dalla stessa società. C'era una spaccatura profonda tra la presidenza e Allegri, c'era invece Galliani, che era l'altra parte del Milan, che sosteneva Allegri. La squadra, come si sa, quando sente un'aria di questo tipo fa quello che le conviene, che non sono necessariamente gli interessi dei club. Tant'è vero che io sono stato, io credo, non so se avrà sentito a inizio stagione, secondo me, cioè io ho detto che è una grande soluzione per la Juventus quella di prendere un allenatore di grande intelligenza come Massimiliano Allegri, e se ci ascolta attentamente io ho detto molte volte, e lei lo saprà, che vabbè, il primo anno ha vinto lo scudetto, il secondo è stato il suo peggiore, l'ha perso, il terzo anno di Allegri al Milan è stato a mio parere il migliore, perché è riuscito in una rimonta che non era semplice. Il discorso è che quando si spezza il feeling tra la proprietà, tra la società e un allenatore, meglio intervenire e fare un cambio. Questo è quello che ho sempre pensato, e l'ho pensato anche a proposito di Allegri, che anche qui ho ripetuto molte volte, quest'anno sta conseguendo l'esame di laurea come grande allenatore. La sua stagione migliore in assoluto è l'anno della consacrazione di Max Allegri. Poi vediamo come va a Berlino. Ciclismo. Dai, bellissimo, dai, abbiamo completato un lavoro di squadra che in questi giorni abbiamo provato tutti i giorni a vincere la tappa. Oggi mi sono messo nella fuga io, perché sul lago Laceno dovevano attaccare sperando che mi raggiungessero, invece poi dopo la corsa andava diversamente. Io ho dovuto prendermi le mie responsabilità, avevo paura di Slatter che aveva preso troppi minuti, quasi 2 minuti, e ho fatto l'ultima salita alla morte veramente, sono scollinato, guarda che non ero a tutto. Poi sapevo che c'era un altro strappo, stavo ancora bene, avevo le gambe buone, ho fatto gli ultimi 5 km in apnea. Pieragusto Stagio, un minuto e mezzo per dire che è un Giro d'Italia che parla italiano, finalmente. È un Giro d'Italia che parla italiano, è un Giro d'Italia bello. Questi primi 9 giorni sono stati, credo, molto divertenti. Bello e pericoloso, bello e impossibile. Bello in tre occasioni molto pericoloso. Abbiamo anche vissuto un momento molto delicato, la caduta di Domenico Pozzovivo, ma anche la caduta di Daniele Colli e Alberto Contadorno sono state da meno. Colli è all'ospedale ancora oggi, probabilmente deve essere operato anche al polso, essere stato operato per la riduzione della frattura dell'omero, per quello sciagurato fotografo che fa fatica a chiedere scusa e vuole essere compreso. Noi vorremmo semplicemente che comprendesse anche lui i corridori e come si sta al mondo quando si va a vedere le gare. Che ogni tanto che capita fare sciocchezze, in quell'occasione l'ha fatta lui a Castiglione della Pizzeria. Per il resto è un bel giro dove c'è Aru che sta perfettamente ad essere minomato in prova a cronometro, parte con un gap, è un handicap profondo che è quello del cronometro di Valdobbiadene, dove Port e Contador guadagneranno. Sì, però ci sono diversi discorsi che possono essere fatti sulle montagne e io in Aru che attacca Contador, che proverà ad attaccare Contador, ci credo certamente. Pier, ci sentiamo domani, anzi bene, sentiamo più tardi GR Serali, poi speciale domani mattina dopo il GR delle 7. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, si aspetta solo il fischio.